Il punto di Stefano Folli. Nella giornata di Obama a Roma è passata un po' in secondo piano la messa celebrata all'alba dal Papa davanti ad alcune centinaia di parlamentari, uomini e donne di governo, esponenti politici. Papa Francesco non ha dedicato loro nemmeno uno dei suoi celebri sorrisi e li ha strigliati con una durezza inusuale. In pratica ha detto loro nell'omelia che i peccatori possono pentirsi, ma i corrotti, per i corrotti ci sono poche speranze perché sono essi stessi incapaci di cambiare strada. Nessuno degli astanti aveva previsto parole così aspre e l'imbarazzo di alcuni era evidente. Gli accenti del pontefice ricordavano a tratti quelli riservati pochi giorni prima ai mafiosi, ai quali aveva promesso l'inferno. È chiaro che Francesco non intende essere strumentalizzato dalla politica e quindi se ne è tenuto molto distante, anche se questo ha significato deludere quanti, di sicuro non pochi, erano accorsi ad ascoltare la sua parola in buona fede e senza secondi fini. Ma questo è lo stile di un papa che ama le persone o le folle e pochissimo i politici.